Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Avevo già anticipato qualcosa settimana scorsa in onda, poi sono stato più preciso in lista nera durante il weekend e quindi ora di conseguenza sono più preciso anche in onda. Voglio sapere come ascoltate Eclettica, voglio sapere quale delle quattro modalità utilizzate per sentire le quattro parti di 30 minuti ciascuna che vanno in onda la prima volta dal martedì al venerdì alle ore 22. Non tanto come mettiate in pratica le istruzioni che sentite nella sigla iniziale, quanto se utilizzate il tradizionale etere oppure la piattaforma satellitare o lo streaming su internet o il podcasting. Poi chiaramente sulla base delle indicazioni che sto già ricevendo e che riceverò a giulio at radiorockfm.com potrò prendere delle decisioni in una direzione piuttosto che in un'altra. Vi assicuro che non è un'indagine fine a se stessa. Stamattina due camion bloccavano via Marsala e degli operai avevano tirato uno di quei nastri di celofan bianchi e rossi e l'avevano fatto per via che davanti alla tabaccheria all'altezza delle strisce pedonali era crollata la strada. Dopo, in via dei Mille, al supermercato, davanti allo scaffale delle marmellate, c'era un secchio per terra, ce l'avevano messo perché dal soffitto pioveva. Poi, a casa, è arrivata Francesca con una borsa di roba da mangiare che aveva preparato sua mamma. Come è stata sopra al tappeto, la borsa, ha cominciato a colare, si era rotto il contenitore del minestrone. Dopo, quando ho cambiato mia figlia, ho scoperto che aveva il pannolino messo male, tutta la schiena e tutta la canottiera sporche di merda. Dopo piangeva nel togliere il gioco delle api che giravano dalla carrozzina. L'ho fatto cadere, si è spaccato un angolo della casetta di plastica marrone. Dopo la connessione con internet non funzionava e se tenevo il filo attaccato non funzionava neanche il telefono. Poi ho fatto per sedermi sul divano e ho visto che la merda aveva sporcato anche il divano. Allora mi è venuto da pensare una cosa che ultimamente ogni tanto mi viene da pensarla. Che il mondo, così come l'ho conosciuto io, non esiste più, che al suo posto ne hanno messo uno nuovo. Questo era l'incipit di Noi la faremo vendetta, di Paolo Nori.

Questa è Eclettica, due brani emblematici all'apertura di questa settimana. Potremmo considerarli quasi agli antipodi dal punto di vista musicale. Pillole di Eclettica, perché sei partita come sigla, non eri tu che dovevi partire, doveva partire questa. Vabbè, ogni tanto capita di schiacciare il bottone sbagliato. Vi stavo dicendo, agli antipodi questi due brani, perché sono andato, come capita in maniera estremamente rara, a prendere un disco major. Però c'è un brano da questo disco che a me piace, sono stato anche contento che poi sia stato scelto come singolo, è quello che ha aperto Eclettica di quest'oggi, Invincible da parte dei Muse. Invincibile, non invisibile, e questa è la corretta dizione. Per passare poi invece al Guatemala dei Radio Zumbido, che erano usciti con questo Los Últimos Días de la M nel 2002, per la precisione nel febbraio 2002, per Quatermass, questo è il nome dell'etichetta, ed erano passati molto spesso in quel periodo dalle parti di Eclettica, del motivo per cui quest'oggi ce li siamo ascoltati appunto all'interno delle pillole di Eclettica. No, c'ho ancora in mente l'errore di prima che continua a farmi sbagliare, di Profumo di Eclettica. Ok, dovrei aver rimesso a posto un po' tutte le cose. Profumo di Eclettica, cioè lo spazio dedicato al riascolto di brani che avevano caratterizzato vecchie playlist di questa trasmissione. E vediamo di proseguire con un artista che ci eravamo ascoltati appena uscito il suo nuovo disco, andando a prenderne però un altro brano. Sto parlando di Damien Rice, quest'oggi è la volta di Ruthless Tree. Yeah. understand, things are now in motion that cannot be undone. If the ring is destroyed, Sauron will fall. But if Sauron regains the ring, his victory will be so complete that none can foresee the end of it while this world lasts. E siamo andati a riprendere anche la traccia che dà proprio il nome all'album che ci ha fatto conoscere Miss Kaniki, uscito per Alpha South. Si trattava di Collision Time. Ora vi devo parlare di biglietti di concerti che potreste andare a vedere gratuitamente grazie ad eclettica, come per esempio mi è rimasta una data di Micah P. Hinson, ovvero sia Milano alla Casa 139 il 6 di febbraio. Per gli altri ormai è troppo tardi, per gli altri concerti di Micah P. Hinson in Italia. E invece poi ho date dei Giardini di Miró, il 1 di febbraio all'Hiroshima di Torino, il 16 al Rainbow di Milano e il 17 all'Auditorium Flog di Firenze. Vi ricordo, Giulio at RadioRockFM.com è l'indirizzo a cui scrivere il più velocemente possibile se volete entrare nella lista di quelli che entrano gratuitamente grazie ad Eclettica. Ora una nuova produzione italiana, milanese a tutti gli effetti, e anche se all'anagrafe l'artista in questione risulta nato a Montreal, ma come lui stesso dichiara è solo una scritta sulla carta d'identità, essendosi trasferito poi giovanissimo, piccolissimo, nella città di Milano. Lui si chiama Giuliano Dottori ed esce per il Re Non Si Diverte con un disco d'esordio in cui molti artisti della scena milanese gli hanno dato una mano, non solo nella realizzazione di questo disco, ma anche nella crescita anno per anno che l'ha portato appunto a incidere questa sua prova d'esordio. Io vi faccio ascoltare un brano, Alibi, che è la traccia numero 4, per cui vado a riprendere le sue stesse parole. Alibi nacque 3 anni fa come brano rock piuttosto deciso, con un riff tagliente stile primi Radiohead. Poi un bel giorno mi dissi: questo è un buon testo, ma la musica non c'entra nulla. Così divenne una tenera ballata acustica condita da un trio d'archi molto classico. È una dolce resa e non trovo pace così, ti ritrovo qui. E forse il meglio di me non l'hai visto mai. E scopro che i miei alibi sono inutili. Scappo solo per poi ritornare. Schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto. Ricordo le mie bugie e le tue verità che confondo con le mie, e parlo ancora di te, io che odio perdere. Solo per poi ritornare, schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto. E scappo solo per poi ritornare, schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto di me. E siamo così arrivati anche alla chiusura della prima parte di Eclettica, chiusura che si completa anche con un artista che italiano non è, ma canta in italiano. Lui è ticinese, avrete già capito che sto parlando di Jonathan, che ci stiamo riascoltando, per così dire. Ricordatevi quello che vi ho detto di lui settimana scorsa, con Niente di giovane dietro una droga. Non c'è niente di giovane dietro una droga, proprio niente di giovane dietro una droga.